devo violare me stesso, celare il complesso dietro il sorriso, essere meno schivo e diffidente. Devo ignorare me stesso, accettare il compromesso che non condivido e non lamentarmi di niente. Devo avere sogni rapportati al tempo odierno ed anche quando dormo ragionare come fossi sveglio. Separare l'utopia adolescenziale dal progetto, tutto resto uguale, inutile perdere tempo. Devo ricordarmi che io non sono nessuno, che sono figlio di operai, nipote di operaio, stesso un operaio, che per noi non esiste futuro. Il domani rende l'oggi fiera di ossessioni. Devo ricordarmi quanto mi hanno detto che il messaggio nell'hip hop è fuori moda da parecchio. Devo imitarli per suonare un po' più fresco, o forse devo solo mandarli a fanculo. Devo tutto o niente. Devo tutto o niente. Devo ridere più spesso, devo parlare diretto. I sogni offuscamenti danno alibi al tuo intelletto. La comprensione non è un cazzo di diritto. Nipo resta sopra quel balcone con Dre, Joe e Alessio. Il tempo si è fermato, quiete, indolente e motivato. Voi vedrete come tengo, che ho la saudade di un cantante di fado. E destino sul mio dito, l'acqua incontra un disco raro fuori tempo. Le chiese non la danno a bere, una parte di me chiede riempimi il bicchiere. Non ha denaro né all'amore né al cielo, al desiderio ultraterreno. Bravo un equilibrio materiale nell'irreale. Declino, senso del profondo, sensitivo dell'inconscio più superficiale. Immerso nel declivio, ho soluzione di fantasmi, alterazione di coscienza, giorni che non vivo. Devo tutto o niente. Non posso fare quello che voglio, faccio quel che devo. Se non voglio farlo e sono costretto, lo faccio e poi bevo. La mia non gioventù bruciata e maledetta. Morirò prima di mettere la cravatta e aver la valigetta. Avevo il supplizio dell'ufficio, fra il coraggio di sparire dal vostro sguardo. E non è un gioco di prestigio. Devo ricordarmi di chiamarmi ego, come devi ricordarti se lo scrivi di metterla a davanti. H perché aspiro il verde, aspiro a darti delle merde. H se la cava la cavalla, quelle cosce aperte quando passi tu. Troian gonne da tirarsi giù, e se te la tiri poi ti tira il legno come i caschi blu. Devo restare nei miei panni, tener duro e diventarmi qualcosa per non suicidarmi a 30 anni. Devo avere un titolo, un diploma, una cultura, un peso piuma. Devo mantenere il titolo e la sua cintura. Devo tutto o niente. Devo tutto o niente.